rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa europea. Questa settimana mi diverte un po' a iniziare con un'intervista che Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ha rilasciato alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che è uno dei giornali più autorevoli d'Europa e sicuramente il più autorevole di Germania. Ha rilasciato questa intervista e poi ha cominciato a smentire, perché le cose che ha detto in questa intervista erano effettivamente, come vedremo subito, e come del resto ha scritto anche qualche giornale italiano nei giorni successivi, erano abbastanza pesanti. Allora ha detto che era stata fraintesa, che la traduzione aveva dei problemi, il Fondo Monetario Internazionale ha smentito. Io credo che la sostanza sia vera. E la sostanza qual era? La sostanza è che Christine Lagarde ha detto che l'uscita della Grecia dall'euro, la cosiddetta Grexit, è una possibilità. Poi appunto vedremo nei prossimi giorni, però è un po' la prima volta che il Fondo Monetario Internazionale, che era uno dei tre membri della famosa famigerata Troica, gli altri due sono la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea, è la prima volta che si pronuncia chiaramente questa parola Grexit, e forse vederla stampata nero su bianco sulla FATS ha fatto molto effetto. In ogni caso vedremo appunto, perché come sappiamo, come sapete, come ormai sanno tutti quelli che seguono questa trattativa, sulla Grecia non è detta l'ultima parola. E passiamo alle Figaro, perché le Figaro invece ha colto l'occasione del 29 di maggio di ieri, cioè che cadeva l'anniversario di un referendum che era stato fatto il 29 di maggio nel 2005 in Francia, per far esprimere i francesi per il sì o per il no al trattato sull'Unione Europea, e il Figaro ha fatto un sondaggio e il risultato è che la maggioranza dei francesi ridirebbe no a quel trattato costituzionale europeo. E quando i francesi appunto nel 2005 bocciarono la carta dell'Unione Europea, e oggi addirittura quella percentuale salirebbe, perché all'epoca era stato il 54% a dire di no, oggi sarebbe il 62%. È un ulteriore segnale del malessere che attraversa l'Unione Europea, attraversa i paesi membri dell'Unione Europea, anche in questo caso la Francia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, per probabilmente sicuramente la crisi ha avuto il suo peso, ma c'è proprio una saturazione quando si vede che cosa è diventata dal punto di vista burocratico, dell'apparato burocratico, l'Unione Europea, che in realtà era nata e oggettivamente è soprattutto una comunione di ideali, oltre che naturalmente una zona franca di interessi economici. Restiamo un attimo sulle Figaro, argomento completamente diverso. Abbiamo tutti seguito il Festival di Cannes, che si è concluso un po' con una delusione per i film italiani, ma forse c'era stata un po' troppa esaltazione, un po' troppe aspettative per il semplice fatto che ci fossero tre film italiani in concorso. E allora Le Figaro spiega che forse ci vorrebbe un pochino più di lobbying, abbiamo parlato tante volte di lobbying anche in questi casi dove le giurie sono internazionali, però forse appunto se si vuole essere così nazionalisti bisogna che poi ci sia qualcuno che spinge per i candidati film italiani. E poi naturalmente c'è chi potrebbe dire, ma in realtà semplicemente ha vinto il film più bello, gli attori più bravi, e per gli italiani sarà per la prossima volta. Ma torniamo all'Unione Europea e ai suoi trattati, perché Le Monde, un altro quotidiano francese, Le Figaro un quotidiano più conservatore, Le Monde un quotidiano più progressista, ha dato conto di un patto che esisterebbe per rafforzare l'integrazione all'interno della zona euro senza modificare i trattati. Secondo questo retroscena, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese François Hollande, e sapete, aggiungo io, che si è sempre parlato di un forte asse franco-tedesco un po' indebolito dalla crisi ma che esiste ancora all'interno appunto dei membri storici dell'Unione Europea, avrebbero stretto un accordo per creare un'unione politica più stretta. La proposta, secondo il quotidiano francese, verrà presentata al prossimo vertice dei leader dell'Unione, che è in programma per fine giugno, e si presenta già come uno dei primi ostacoli al premier inglese David Cameron, che sapete, e dopo vedremo anche come viene commentata questa notizia, sapete che dopo aver stravinto le elezioni politiche nel suo paese ha subito riportato sul tavolo la questione dell'appartenenza della Gran Bretagna all'Unione Europea. Ripeto ancora una volta, anche la Gran Bretagna è uno dei paesi fondatori, ma Cameron, proprio per i malumori che esistono anche in Gran Bretagna verso Bruxelles, ha promesso un referendum, che all'inizio un referendum per addirittura chiedere ai britannici se vogliono restare all'interno dell'Unione Europea o uscirne. All'inizio doveva essere entro il 2017, è stato anticipato al 2016. Passiamo a Financial Times. Financial Times si è occupato molto di noi questa settimana. Ha pubblicato un articolo di un corrispondente che è venuto in Italia e ha poi concluso che l'economia italiana sembra veramente emersa da questa triple dip, dalla recessione alla tripla recessione, e però ci sono ancora degli ostacoli. Poi, attraversando il paese, e ha sicuramente ragione questo giornalista, si vede anche, noi siamo un paese così lungo, stretto, con così tante differenze, ancora quanto gap c'è tra il nord e il sud, però è un articolo sostanzialmente ottimista. Dopodiché, venerdì invece Financial Times ha interpellato Piercarlo Padoan, quindi il nostro ministro dell'economia, e che si è detto ottimista sia per la nostra economia, abbiamo visto anche dei dati positivi giovedì, ma anche e soprattutto sulla questione della Grecia di cui parlavamo prima. Adesso sembra che appunto siano entrati tutti in una fase di ottimismo, tranne Christine Lagarde, che ha parlato di Grexit, ma come abbiamo visto forse ha capito di essere fuori dall'umore più generale, quindi ha smentito. Vedremo, insomma, noi continuiamo a seguirli questi negoziati e non vediamo l'ora che ci sia una soluzione. Come ho detto tante volte, noi naturalmente tifiamo perché la soluzione si trovi e perché la Grexit sia scongiurata. A proposito di Banca Centrale Europea, che è forse l'istituzione in questo momento che gode di maggior rispetto, perché con le mosse di Mario Draghi e il quantitative easing abbiamo visto che c'è stato veramente un effetto positivo e molte cose all'interno dell'Unione sembrano essersi sbloccate, a partire naturalmente dal fatto dell'indebolimento dell'euro che ha rafforzato tutte le aziende che esportano. Ecco, secondo El País, la Spagna vorrebbe che la BCE avesse un mandato più ampio e forte sullo stile della Federal Reserve, che è la banca centrale americana. Lo si è detto molte volte questo, e non a caso il quantitative easing è proprio la misura che la Federal Reserve ha più usato negli ultimi anni e che adesso anche con quello che molti hanno definito il coraggio di Mario Draghi è stata usata. Secondo appunto El País, che ha dato anticipazione di questo documento, si potrebbero proprio evitare anche tutti questi shock valutari. O questi sconquassi valutari, come è stato il super euro negli ultimi anni, se la BCE avesse un mandato più forte. Vi parlavo di David Cameron e della Brexit, che a differenza della Grexit, che sarebbe solo l'uscita della Grecia dall'euro e non dall'Unione Europea, sarebbe invece Brexit uscita dall'Unione Europea, perché la Gran Bretagna non fa parte della zona euro, si è tenuta stretta la sua sterlina. Ecco, la Zeit, che è un settimanale tedesco, ha pubblicato un lungo articolo che potete leggere per intero sul sito, che sapete mi è molto caro, www.presseurope.eu, e l'articolo si intitola David Cameron messo all'angolo, e Press Europe lo ha anche corredato con una vignetta in cui David Cameron sta facendo un bagno pieno di bollicine e con una spugna che sul dorso ha la bandiera dell'Union Jack, si sta staccando dal petto la bandiera dell'Unione Europea, quella blu con tutte le stelline, e nell'altra mano ha una saponetta su cui c'è scritto Brexit. Ecco, secondo la Zeit non è una situazione così facile per Cameron, scrive la Zeit. Il primo ministro era alle strette, si è lasciato mettere nell'angolo quando, sotto pressione nel 2013, ha promesso un referendum sull'Unione Europea. E adesso però di questa promessa gli hanno chiesto conto gli elettori e persino la regina nel discorso di insediamento. La City, con molti suoi esponenti, quindi la comunità finanziaria inglese, ha già detto che la Brexit sarebbe una cosa estremamente negativa per l'Unione Europea, ma Cameron deve fare i conti con il suo elettorato e anche con tutte le persone che vedono alcune minacce anche dalle regole sulla libera circolazione delle persone che si riflettono sull'immigrazione. Quindi vedremo un po'. Un'ultima segnalazione volevo farvela con due articoli pubblicati da Internazionale di questa settimana, perché sapete si è votato settimana scorsa in Spagna e Polonia, sono due voti che hanno avuto due esiti molto diversi, e da qui appunto l'editoriale pubblicato da Le Monde e tradotto da Internazionale, la lezione di Spagna e Polonia. Vi leggo le ultime righe: pur con forme diverse, e bisogna riconoscere ai nuovi partiti spagnoli il merito di non aver mai ceduto alla xenofobia del Front National, sono l'espressione di una forte corrente che contesta i sistemi politici. Rajoy ha scelto di ignorarlo e ne ha pagato il prezzo. Lui e gli altri leader europei farebbero bene ad analizzare osservare con estrema attenzione questi segnali di collera, ed è un discorso naturalmente che vale anche per l'Italia. Vedremo le elezioni di domani, ma vedremo soprattutto le politiche quando ci saranno. Un buon sabato da Giulia Crivelli, e mi raccomando, continuate a seguirci. Questi sono giorni veramente, sono mesi e forse anche anni veramente importanti per il futuro dell'Unione Europea. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.